questo giorno, le notizie in 60 minuti. Buona giornata, alle 13 e 14 secondi. Il Parlamento della Crimea proclama l'indipendenza e chiede al mondo di riconoscere il nuovo Stato. Nazionalizzati i beni ucraini. Oggi i ministri degli esteri europei decidono sulle sanzioni a Mosca, ma gli Stati Uniti prendono tempo. Oggi alle 18 l'incontro fra Matteo Renzi e Angela Merkel. Il governo accelera sui tagli alla spesa, non solo a F-35 e caserme, ma più responsabilità nei ministeri. I marines americani prendono il controllo della petroliera nordcoreana che aveva caricato il petrolio dei ribelli libici. È stato trovato morto l'alpinista scomparso venerdì sul Monte Bianco, è precipitato per 600 metri. Queste le notizie principali, titoli di Effetto Giorno. Una buona giornata da Enrico Pagliarini. Oggi si occupa della parte tecnica Gianmarco Ferronato. Laura Faggin ci aiuta in redazione e anche in regia. Bene, abbiamo detto della Crimea, il Parlamento della Crimea ha proclamato l'indipendenza, sicuramente questa è una delle notizie principali della giornata. Tra poco un approfondimento, ci collegheremo anche con la Crimea, con l'inviata del Sole 24 Ore che si sta spostando da Simferopoli a Sebastopoli. Faremo il punto più tardi. Adesso la politica italiana in diretta da Roma, Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno, non siamo, scusate, ci sono dei problemi con il collegamento, non siamo gli alunni somari, spiega Matteo Renzi, non dobbiamo aver paura di nessuno, siamo l'Italia e non andiamo dietro la lavagna. Con questo spirito il Premier affronta la cancelliera Angela Merkel nel bilaterale di Berlino di oggi pomeriggio. Vado in Europa consapevole di rappresentare un grande paese di cui sono orgoglioso, se delle volte abbiamo fatto degli errori siamo pronti a rimediare, vogliamo guidare l'Europa non per 6 mesi nel semestre di presidenza ma per i prossimi 20 anni, e se ce la faremo daremo ai nostri figli un'Europa diversa. Riguardo alle nuove norme sul lavoro, si spiega, non significa dare più precarietà ma consentire ai ragazzi di lavorare, a me non interessa gli addetti ai lavori, i sindacalisti o associazione di categoria, ma i ragazzi. Il Premier arriverà a Berlino con una delegazione di 6 ministri con l'auspicio di un allentamento della politica di rigore imposta dalla cancelliera di ferro, ma a questo proposito c'è già una prima reazione, Enrico, perché il giornale Die Welt dice che Renzi provoca la Merkel con l'antirigore. Per il momento qui da Roma è tutto, a te Enrico. Bene, grazie ad Elisabetta Fiorito, naturalmente seguiremo tutto quello che accadrà nella giornata, nel corso del pomeriggio e della sera, e vi ricordo l'incontro è previsto alle 18, quindi fin verso le 19:20 non sapremo molto sui risultati di questo dialogo tra Matteo Renzi e Angela Merkel a Berlino. Adesso facciamo il punto con Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Oggi a Berlino Renzi affronta il passaggio più delicato della sua recente leadership, perché si capirà se queste risorse di cui il governo italiano ha urgente bisogno possono scaturire da un'interpretazione più estensiva delle severe regole circa i limiti del deficit. Finora tale opportunità non è mai stata concessa, almeno non a un paese come l'Italia, super indebitato e incapace di riformarsi. Se Renzi ottiene qualcosa sarà quindi un gran successo, altrimenti l'intero piano del governo per soccorrere i redditi bassi e gli altri interventi connessi dovrà essere ripensato. Renzi spiegherà alla Merkel quale rischio si corre a far deragliare il suo esecutivo appena nato alla vigilia delle elezioni europee, con i partiti populisti pronti a fare il pieno dei voti. Detto in altri termini, anche l'Europa ha bisogno dell'Italia come l'Italia dell'Europa. È una partita in cui il nostro Premier sarà solo, dal momento che non c'è da fare troppo affidamento sul sostegno francese, fatto soprattutto di belle parole. Ma se mai egli la spuntasse, sarebbe la prima seria inclinatura nella religione dell'austerità. Bene, ne sapremo di più, come dicevo, questa sera, ma nel frattempo il governo, almeno nelle intenzioni, in base ai progetti, accelera sul taglio alla spesa. Sentiamo il servizio. I tagli alla spesa sono un obiettivo obbligatorio. A sottolinearlo non è soltanto il presidente del Consiglio Renzi, oggi a ribadirlo in un'intervista, e anche Graziano Del Rio, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, al quale il Premier ha dato un ruolo di primo piano nella gestione della spending review, vero pilastro della strategia di governo. Bisogna spostare risorse dalla spesa improduttiva agli investimenti per crescita e occupazione, spiega l'ex sindaco di Reggio Emilia, una partita da 32 miliardi in tre anni. Nella riunione con gli altri ministri ho messo in chiaro che abbiamo portato la spending review a Palazzo Chigi perché quelli indicati non saranno obiettivi facoltativi, spiega Del Rio, che avverte: tutti i ministri verranno giudicati in base alle loro performance. Chi a fine anno non avrà raggiunto gli obiettivi indicati andrà a casa. A far discutere in queste ore sono in particolare i tagli chiesti al settore della difesa, 3 miliardi nel prossimo triennio. Si tratta di risparmi che potranno arrivare anche da una revisione del controverso programma di acquisto dei cacciabombardieri F-35. A farlo sapere ieri è stato proprio il ministro della difesa, Roberta Pinotti, la quale ha aggiunto che a breve verranno anche dismesse 385 caserme e che da qui al 2024 il personale delle forze armate sarà ridotto di circa 40.000 unità. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Due i binari della spending review della difesa: non solo riduzione dei caccia F-35, ma anche chiusura di 385 caserme con la creazione di una task force per gestirne la vendita. Un risparmio di 3 miliardi di euro. Il piano F-35 è un grande progetto da 14,3 miliardi di euro in 15 anni per l'acquisto di 90 caccia, 60 a decollo convenzionale, circa 74 milioni di euro l'uno, e 30 a decollo verticale, 88 milioni di euro l'uno. L'aeronautica militare considera questi caccia indispensabili, ma il taglio si può fare, secondo Gian Andrea Gaiani, direttore di analisi difesa. Si può fare perché l'Italia si è impegnata ad acquistare prima 131 aerei, poi 90 dopo la riduzione effettuata dal governo Monti, ma di fatto non ci sono penali qualora l'Italia o altri paesi che aderiscono al programma riducessero i numeri, e soprattutto gli aeroplani vengono acquisiti di anno in anno in base a contratti che vengono rinnovati. Queste le conseguenze. Ci saranno nella partecipazione delle industrie italiane a questo programma. L'Italia ha costruito a Cameri uno stabilimento per l'assemblaggio dei velivoli non solo destinati all'Italia, per la costruzione delle ali. Già quando ci fu il primo taglio da 131 a 90 aeroplani, il numero di ali che Lockheed Martin ha chiesto dalle Aermacchi è stato ridotto. Se riducessimo ulteriormente la commessa, anche il ritorno per le commesse che riguardano le nostre industrie probabilmente, anzi sicuramente, verrebbero ridotti. Imminente soprattutto la razionalizzazione del sistema difesa in Italia, già avviata dal precedente governo per ridurre da 190.000 a 150.000 i militari di aeronautica, marina, esercito da qui al 2024, oltre alle 385 strutture da chiudere, insieme a una task force che si occupi della vendita dei beni. Nella cura dimagrante la strategia deve però precedere i tagli, secondo Gian Andrea Gaiani. Come finalmente ha detto, e spero voglia farlo veramente, il ministro Pinotti, definire un cambiamento nella difesa bisogna prima pianificarlo, quindi questo libro bianco di cui l'Italia non si è mai dotata, che stabilisca cosa vuole il paese dai militari per i prossimi 10 o 20 anni, perché il problema è soprattutto la sostenibilità dei costi, come se ci comprassimo una Ferrari ma non avessimo poi soldi neppure per fargli il bollo e per fargli il pieno di benzina. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A proposito di militari, le forze Navy SEALs, quindi Marines americani, hanno preso il controllo della petroliera nordcoreana Morning Glory, che trasportava greggio caricato illegalmente da ex ribelli libici di proprietà della Compagnia Nazionale Petrolifera Libica. Lo ha reso noto poco fa il Pentagono, sottolineando che nessuno è rimasto ferito, ma al momento non ci sono altri particolari nemmeno su dove questa operazione è stata effettuata, presumibilmente nel Mediterraneo. Ed ora parliamo dell'aereo malese che ancora non si trova, lo ricordiamo, a bordo c'erano 239 persone. Sarebbe stato il copilota del Boeing 777 della Malaysia Airlines, comparso la notte dell'8 marzo, a pronunciare le ultime parole ricevute a terra. La frase "tutto bene, buonanotte" fu ricevuta dai controllori di volo dopo che qualcuno a bordo aveva disattivato il sistema che segnala la presenza dell'aereo a terra. Su cosa sia successo esattamente nella cabina del Boeing scomparso non c'è però ancora alcuna chiarezza. Di certo per i servizi segreti americani questo è un caso che cambierà la storia dell'aviazione civile. L'elemento inquietante, confermato dalle autorità locali, è che quando c'è stato l'ultimo contatto radio tra cabina e controllori, sia il sistema di trasmissione dati che il transponder erano già stati spenti, tutte operazioni che richiedono una certa preparazione. Per questo l'intelligence USA spinge i malesi a passare al setaccio la vita dei piloti e dell'equipaggio del volo MH370 decollato da Kuala Lumpur e mai arrivato a Pechino, ma controllare anche il personale di terra e in particolare un passeggero a bordo, un ingegnere aeronautico malese di 29 anni che stava stava andando a Pechino per lavorare su un aereo cinese. Tra le diverse ipotesi investigative, sequestro dell'aereo, sabotaggio, terrorismo. La ricerca del Boeing, o di ciò che ne resta, si svolge ora lungo un arco di 8.000 km e coinvolge 25 paesi. Fonti statunitensi sostengono che il jet è scomparso dal radar civile nel punto perfetto, una zona grigia al confine tra lo spazio aereo malese e quello vietnamita. Dalla Gran Bretagna, infine, rilanciano la pista di Al-Qaeda. Secondo l'Independent, l'aereo scomparso potrebbe essere volato verso la regione controllata dai talebani tra Afghanistan e Pakistan. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il corpo senza vita dell'alpinista lecchese Marco Anghileri è stato trovato e recuperato ai piedi del pilone centrale del Frenei al Monte Bianco. L'uomo è precipitato dalla parete per circa 600 metri. L'ultimo avvistamento dell'alpinista risale al tardo pomeriggio di venerdì in cima al pilone del Frenei. Una donna di 58 anni e il nipotino di 2 sono stati aggrediti da 3 cani della famiglia di razza Rottweiler che hanno dilaniato un braccio della donna. Si trova adesso in gravi condizioni all'ospedale, ferito il piccolo al volto. L'episodio, di cui si è saputo solo oggi, è avvenuto ieri pomeriggio a Bari. Un uomo di origine albanese è stato ucciso a colpi di pistola oggi a Misano Adriatico, in provincia di Rimini. Il delitto sarebbe avvenuto attorno alle 11, probabilmente in strada davanti al supermercato Conad di Misano, dove il cadavere è stato trovato. Un uomo di 50 anni, operaio della Techno Electric di Castiglione d'Adda, in provincia di Lodi, è arrivato nella sua azienda questa mattina, pochi minuti prima delle 10, e ha iniziato a sparare, ferendo 3 colleghi che non risultano fortunatamente in pericolo di vita. L'uomo è stato bloccato dai carabinieri di Codogno, ma non si conoscono i motivi di questo gesto. Mirko Jeni, dominus del giro di prostituzione minorile che vede 2 ragazzine coinvolte a Roma, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP Maddalena Cipriani questa mattina per l'interrogatorio di garanzia. Tutto quello che dico, ha detto, finisce manipolato dopo un'ora sui mezzi di comunicazione, per questo preferisco non parlare, ha detto questa mattina. Jeni, lo ricordiamo, è stato raggiunto il 12 marzo da una terza ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Prima di parlare di sport, una notizia che arriva da Zanzibar: circa 180 passeggeri, molti di loro sono italiani, sono bloccati da ieri a Zanzibar dopo che il volo che avrebbe dovuto portarli a Bologna è stato cancellato per un guasto all'aereo. Anche un secondo volo previsto questa notte è stato cancellato e i turisti denunciano le condizioni in cui vivono questa attesa, senza aria condizionata e senza acqua. La compagnia aerea Meridiana sta inviando un nuovo aereo in Africa. Carlo Genta, buongiorno. Ciao Carlo. Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti. Allora, che cosa diciamo di questa domenica sportiva? Beh, di Formula 1 poco, perché aspettiamo... Zeppa di eventi, eh? Zeppa di eventi, sì. Eh beh, come no, a Formula 1, vabbè, il campionato è iniziato, no. Cosa vuoi aspettare? Possiamo... No, dico, aspettiamo qualche gara per capire un po' cosa... Ah, bello così, la mascherata, la prima mascherata stagionale, credo sarà un po' una stagione di mascherate, almeno all'inizio, perché è difficile capire i reali valori se non, esatto, il fatto che la Mercedes... Però aspettiamo un attimo. Vabbè, se vuoi aspettare, aspettiamo. Intanto la Mercedes vince, Alonso è quinto, e mi sembra la falsa riga delle altre stagioni. Quarto, cioè la Ferrari a rincorrere. Alonso quarto. La Ferrari a rincorrere, comunque. La Ferrari a... quarto perché è stato squalificato Ricciardo. Già, vero anche questo. I bibitari, come dice Leo Turrini, con problemi di benzina. Parleremo di questo poi in tutti i convocati. C'è stata la Pennetta che ha vinto un torneo importantissimo, Indian Wells, una vittoria storica per lei e per il tennis italiano, e poi ovviamente tutti i temi del calcio, una domenica di grandi contestazioni al Milan, Balotelli e Galliani alla gogna, una domenica da scudetto per la Juventus, perché adesso leggi la classifica e sinceramente va bene, mancano 2 partite alla Roma, però 75 contro 58 e non ce la può fare, non ce la farà mai, e quindi questi i tanti temi che ci ha lasciato il weekend, compreso 6 nazioni che è finito, solita bastonata per la squadra italiana. Adesso sarà anche il caso magari di aprire un fronte di critiche per il rugby italiano, che guadagna un sacco di soldi ma non produce risultati. Però, insomma, direi che i temi non mancano, a partire da quelli calcistici, naturalmente. Tra l'altro c'è una coda di questa giornata spalmatissima, come sempre accade nelle primavere di Coppa, perché questa sera giocheranno confronto a distanza per il terzo posto, Torino-Napoli alle 19, Roma-Udinese alle 21, adesso Napoli a Roma sono a distanza di sicurezza, cioè a distanza di tiro, e quindi si gioca per il terzo posto a distanza, appunto, questa sera. Quindi insomma ultima parte della giornata di campionato questa sera. Grazie Carlo, adesso ci fermiamo per le informazioni che arrivano da strade e autostrade, riprendiamo tra poco, parleremo anche di petrolio. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Le 13 e 16 minuti, effetto giorno, queste le notizie più importanti. Il Parlamento della Crimea ha proclamato l'indipendenza e ora chiede al mondo di riconoscere il nuovo Stato. Sono stati nazionalizzati beni ucraini. Oggi i ministri degli esteri europei decideranno sulle sanzioni a Mosca, ma gli Stati Uniti nel frattempo prendono tempo. Oggi alle 18 l'incontro fra Matteo Renzi e Angela Merkel, il governo accelera sui tagli alla spesa, non solo F-35 caserme, ma più responsabilità nei ministeri. I marines americani prendono il controllo della petroliera nordcoreana che aveva caricato il petrolio dei ribelli libici. È stato trovato morto l'alpinista scomparso venerdì sul Monte Bianco e precipitato per 600 metri. Bene, riprendiamo con una notizia che riguarda il ormai famoso, almeno per gli addetti al settore, risico nelle telecomunicazioni. Alcuni le dicono che sia imminente. Intanto Vodafone ha chiuso l'accordo per rilevare l'operatore spagnolo ONO per 7,2 miliardi di euro. Lo ha comunicato la stessa società, precisando che l'operazione genererà risparmi per circa 2 miliardi di euro e che si attende un potenziale incremento dei ricavi per 1 miliardo. Altra operazione sicuramente interessante per l'Italia, oggi operativo un accordo tra la Camfin, che controlla Pirelli, e i russi di Rosneft, che è la più importante società quotata nel settore oil and gas al mondo. Buongiorno a Deborah Rosciani, che ci aiuta a capirci di più in questo accordo. Almeno l'auspicio è quello, perché devo dire che vabbè che la finanza non ci regala mai niente di particolarmente semplice, ma questa è un'operazione decisamente complessa. Partiamo dalla cosa più importante che hai detto: il colosso russo Rosneft, che è già partner commerciale di Pirelli, fa il suo ingresso nella catena di controllo del gruppo della Bicocca, che aveva già iniziato un percorso di riordino lo scorso autunno per accorciare la catena di controllo. Esce dalla compagine azionaria per far posto ai russi il fondo di Sposito, di Claudio Sposito, Clessidra. Nella sostanza i termini della nuova intesa sono stati comunicati questa mattina, sono protagoniste anche le due grandi banche italiane Unicredit e Intesa San Paolo, che avevano a loro volta l'accordo con Clessidra, che è stato sciolto questa mattina. Dallo scioglimento di questo accordo, nella sostanza esce di scena completamente Clessidra, ma le due banche invece reinvestono in una nuova partnership, in un nuovo veicolo in cui appunto i russi avranno il 50%. Nel 50% ci saranno Intesa San Paolo, Unicredit e nuove partecipazioni, che invece una società che fa capo appunto a Tronchetti Provera avrà l'80%. Questo accordo con i russi avrà una durata di 5 anni, che peraltro saranno anche rinnovabili a scadenza. È un accordo che vale 500 milioni di euro, e con questa intesa decadono anche tutti i precedenti accordi che erano stati stipulati con l'Auro 61, che è la società sempre del gruppo Pirelli, che aveva a sua volta effettuato l'offerta pubblica di acquisto su Camfin lo scorso autunno. Quindi Enrico, appunto, avrei capito che non è proprio esattamente un orizzonte semplice quello che abbiamo davanti a noi. Esatto. La cosa che possiamo dire è che questo disinvestimento di Unicredit, Intesa e Sidra ha valorizzato la partecipazione Pirelli in 12 euro, che è praticamente il valore che il titolo ha questa mattina. Quindi in apparenza il gruppo oggi ha una discesa molto forte, adesso meno 3,5 punti, e quindi potrebbe sembrare una bocciatura del nuovo riassetto. In realtà siamo proprio attorno ai 12 euro, quindi diciamo che il mercato si allinea attorno alla valorizzazione che le banche hanno fatto appunto della società. Non so se sono state chiare, ma almeno ci abbiamo provato. Possiamo dire che un pezzetto di Pirelli se ne va all'estero. D'altronde sai che i russi hanno tanti soldi, e quindi non so se dirti se è una buona cosa che vengano un po' ad investire anche in Italia. Hanno tanta liquidità, sì, per infatti. Cui insomma Pirelli comunque è con una partnership che in realtà va avanti da molti anni. Come dicevamo, Pirelli ha molte aziende in quest'area, molti migliaia di addetti, per cui evidentemente c'è uno scambio anche in questo senso. Bene, grazie a Deborah Rosciani. E a proposito degli investimenti e degli interessi russi nel nostro paese, sono molti quelli che già legano l'Europa alla Russia, ma l'Italia in particolare alla Russia. Quindi, come abbiamo detto all'inizio di GR24, oggi l'Europa e in particolar modo l'Italia si trova in una posizione sicuramente difficile, perché c'è una riunione a Bruxelles tra i ministri degli esteri europei che sarebbero orientati a imporre sanzioni severe a Mosca per il suo intervento in Crimea. Tuttavia non è una decisione facile, proprio anche per gli interessi economici che legano l'Europa e in particolare l'Italia con Mosca. Per capire qual è la complicata situazione in cui ci troviamo, è con noi il direttore dell'ISPI che si occupa di studi di politica internazionale, Paolo Magri. Benvenuto, grazie per essere con noi, direttore. Buongiorno a voi. Allora, siamo in una situazione sicuramente delicata perché aumentano gli interessi reciproci tra Italia e Russia, parliamo di interessi economici e commerciali. Siamo in una situazione delicata perché se non facciamo nulla di fronte a questa situazione russa Crimea, abdichiamo ai valori dell'Europa e all'unica strada di politica internazionale che l'Europa ha seguita, cioè l'allargamento, le zone di libero scambio. Se facciamo qualcosa ci facciamo del gran male. E questo è il punto, e tra l'altro il servizio che avete appena trasmesso ci fa capire quanto male. Si diceva poco fa che la Russia ha liquidità ed è bene che venga a investire in Italia. Ecco, immaginiamoci se per reagire a quanto sta avvenendo oggi a Bruxelles, oggi non si deciderà nulla, si lanceranno delle prime indicazioni, ma se si decidesse di bloccare con delle sanzioni gli investimenti russi, bloccare l'export sulla Russia o cose di questo tipo. Molto probabilmente la Russia reagirebbe con iniziative analoghe e noi ci troveremmo in una situazione, parliamo dell'Italia, in base alla quale il 26 miliardi all'anno di interscambio sarebbero in qualche modo a rischio. È una situazione che ci differenzia dagli Stati Uniti, perché l'Europa nel suo insieme ha 400 miliardi di interscambio con la Russia, gli Stati Uniti solo 40, ma nell'Europa in difficoltà maggiore sarebbero Germania, Olanda e l'Italia, i principali paesi che lavorano con la Russia. Quindi paradossalmente gli Stati Uniti in questi giorni stanno tentennando su possibili azioni e sanzioni nei confronti di Mosca, mentre invece apparentemente l'Europa è un po' più decisa. Ma secondo lei si faranno magari alcune frasi di circostanza, ma poco di più? Ma io, guardi, siccome il punto essenziale è che cosa deciderà Mosca venerdì, nel senso che ora la Crimea ha dichiarato l'indipendenza e la richiesta di annessione, ma la Russia deve accettarla. La decisione russa verrà presa venerdì. È molto probabile che l'incontro di oggi lanci dei messaggi duri a Mosca per influenzare la decisione di venerdì, cioè evitare che venerdì Mosca dichiari di accettare l'annessione della Crimea. Quindi ci saranno delle parole dure, ci saranno degli step ulteriori in sanzioni, ma non si arriverà molto probabilmente al risultato finale. Il risultato finale, cioè quel terzo livello di sanzioni che vanno a bloccare anche beni di individui, di personaggi del governo, eccetera. Sì. Lì si potrebbe arrivare, se nello scenario negativo, ripeto, quello in cui ci facciamo del male, dopo venerdì, se Mosca scegliesse la linea dura. Se invece Mosca trovasse soluzioni intermedie o una non soluzione, cioè fare una zona, un limbo, non riconoscendo la Crimea, farla diventare un po' come l'Abkhazia, un territorio che non è chiaro a chi appartenga, o se accettasse di non annetterla, quindi le soluzioni migliori per noi, lì si potrebbero evitare dopo venerdì degli interventi duri. Se Mosca venerdì, ma non oggi quindi, decidesse sulla linea dura, forse anche sulla base delle parole della Merkel sarebbe difficile non intervenire in qualche modo con delle sanzioni. E lì arriviamo appunto a quello scenario in cui un po' di male ce lo facciamo. Perché vediamo i dati molto rapidamente. 26 miliardi di interscambio sono fatte da 16 miliardi di export russo verso l'Italia, gas. Se non lo vendono noi, in qualche modo lo vendono ad altri. Più difficile per noi trovare un altro mercato ai 9 miliardi di beni che mandiamo a Mosca. Nella situazione attuale è un mercato preziosissimo, come sappiamo e come abbiamo visto anche in occasione dell'ultimo vertice Italia-Russia a Trieste, dove sono stati siglati 26 accordi commerciali fra imprese italiane e imprese russe. Quindi sì, è un difficile momento, certo. E l'Italia e la Germania rischiano di pagare più di altri di questo. Italia, Germania e Olanda. Magri, la ringraziamo per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro, a presto. Grazie a voi e a presto. E adesso noi andiamo proprio in Crimea. Antonella Scotti, inviata del Sole 24 Ore. Ciao Antonella, buongiorno. Buongiorno. Dove ti trovi? Perché sappiamo che ti sei spostata da Simferopoli a un'altra località. Sebastopoli, dove appunto, come sapete, c'è la base della flotta del Mar Nero e che quindi oggi davvero vive una giornata molto particolare, perché l'atmosfera qui è proprio quasi di un ritorno a casa, ma non solo, mi sembra, ecco, proprio quasi di rivivere al contrario il giorno del lontano 91 in cui a Mosca venne sconfitto il golpe e quindi c'era il passaggio dall'URSS, la consapevolezza che l'URSS sarebbe finita. Ecco, qua oggi si fa un passo al contrario, perché parlando con le persone qua si festeggia non solo questa prospettiva di un ritorno alla Russia, ma c'è proprio tanta voglia di Unione Sovietica. C'è una tanta nostalgia, ci sono persone per le strade che con la bandiera sovietica, persone che fanno vedere, girano con versi, poesie di poeti sovietici e che hanno le lacrime agli occhi ricordando la gioia, ricordando che cosa vuol dire per loro questo passaggio. Ed è davvero un'atmosfera molto, molto particolare, molto strana. Senti, ti faccio una domanda di carattere logistico, ma che ci fa capire anche quali sono i posizionamenti dei trasporti, ad esempio, che sono comunque un aspetto importante strategico. Sappiamo che i voli per l'Ucraina, dalla Crimea all'Ucraina, per Kiev, sono stati cancellati, sono stati riposizionati, sono stati tenuti aperti solo i voli per Mosca. È ancora così? Quindi chiedo poi anche a te, per tornare in Italia dovrai fare transito da Mosca? È possibile, in realtà questo noi ancora non lo sappiamo, perché la decisione dovrebbe arrivare questa sera. Era stato già preannunciato che era una misura in realtà preventiva contro possibili atti di terrorismo, si temeva, per il giorno del referendum. Quindi in teoria da domani i voli dovrebbero riprendere, ma tutto quello che riguarda l'Ucraina è davvero difficile da prevedere, anche perché appunto immaginate, qui davvero c'è l'idea proprio di un paese che improvvisa, una città che si ritrova in un altro paese. Quindi oggi qui è un giorno festivo, perché immagino proprio praticamente c'è un passaggio che deve avvenire. Quindi per esempio la compagnia dei traghetti ha un cartello con scritto oggi per cause tecniche non si parte. È una transizione che avverrà certo qui a Sinfer, poi al governo a Sinferopoli cercano di accelerare il più possibile, però siamo come un po' in un limbo, di un passaggio da un sistema a un altro. Quindi tutto quello che riguarda i legami con l'Ucraina sono da ricostruire. Bene, grazie ad Antonella Scotte per essere stata con noi, buon lavoro a Sebastopoli. A questo punto adesso torniamo nella nostra cara Italia, prosegue il viaggio nel mezzogiorno di Radio 24. Dopo Napoli, Passione Sud, la nostra iniziativa ci porta questa settimana in Puglia. Oggi siamo a Bari. Per uscire dalla crisi anche più infrastrutture. Sì, priorità 1. Da uno scalo cargo all'alta velocità fino ad un raccordo autostradale per il porto di Taranto. L'elenco delle infrastrutture necessarie alla Puglia, Michele Vinci della MASMEC, presidente di Confindustria Bari, è pronto a snocciolarlo per intero domani al ministro delle infrastrutture. Da titolare di una società di automazione abbraccia in pieno la protesta di tutti gli imprenditori della zona contro quello che hanno chiamato il divario del binario, l'esclusione cioè della linea adriatica dall'alta velocità. Questo sarebbe l'intervento più urgente, a loro dire, per spingere l'economia di un'area che sta soffrendosi la crisi in diversi settori, dall'edilizia al commercio al manifatturiero, ma che può contare pure su solide conferme. Per il traffico merci, per cominciare, basterebbe già usare la pista da 3.300 metri dello scalo della vicina Grottaglie. Fino ad ora invece neanche un cartone è partito da lì, se non di Alenia o Boeing, ricorda Vinci. Aeroporto cargo che permetterebbe di poter andare in tutte le parti del mondo senza spostare prima su gomma da Bari o a Roma o a Milano, o addirittura in alcuni casi l'ho dovuto spostare all'estero del macchinario prima di poterlo spedire in America. La parte aeroportuale come cargo agevolerebbe tutti, ma in particolar modo io vedrei il grande vantaggio sulla parte fresca agroalimentare. Strade per diffondere i sapori di un richiestissimo Made in Italy, tutto da gustare. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ecco le notizie principali del giorno. Il Parlamento della Crimea proclama l'indipendenza e chiede al mondo di riconoscere il nuovo Stato. Nazionalizzati i beni ucraini. Oggi i ministri degli esteri discutono sulle sanzioni a Mosca. Ministri degli esteri europei. Gli Stati Uniti intanto prendono tempo. Oggi alle 18 l'incontro fra Matteo Renzi e Angela Merkel. Il governo accelera sui tagli alla spesa. Non solo F-35 caserme, ma più responsabilità nei ministeri. I marines americani prendono il controllo della petroliera nordcoreana che aveva caricato il petrolio dei ribelli libici. È stato trovato morto questa mattina l'alpinista scomparso venerdì sul Monte Bianco e precipitato per 600 metri. Adesso i mercati finanziari. Borse in diretta. Isabella Tasso, buongiorno dall'agenzia Radio con il Sole 24 Ore. Allora, come va la borsa oggi? Ma i listini europei sono ben orientati e tralasciano le tensioni geopolitiche dovute al referendum della Crimea, che a larga maggioranza ha optato per l'annessione alla Russia. L'esito del referendum, secondo gli operatori, era già in parte scontato. L'attesa è ora per capire come evolverà la crisi. Così Londra, Francoforte e Parigi recuperano e guadagnano intorno al 0,5%. Mentre Milano e Madrid fanno anche meglio con rialzi attorno al punto percentuale. Piazza Affari, in particolare FTSE MIB, sale dello 0,88%. Diamo un'occhiata anche naturalmente allo spread. Sì, lo spread è in calo ancora questa mattina, poco sopra i 180 punti base. Tornando alla borsa, gli acquisti sono in particolare su Finmeccanica, più 3,4%, qui cresce l'attesa per i conti del 2013 che saranno diffusi mercoledì, mentre non appare preoccupata la borsa per ora per il possibile taglio della commessa per i caccia F-35 da parte del governo. Bene anche Telecom, più 2,6%, mentre l'intero settore delle telecomunicazioni europee è in fermento dopo le operazioni annunciate in Francia e anche in Spagna, dove Vodafone comprerà la ONU, che è un cable operatore, per 7,2 miliardi. Debole Pirelli, meno 3%, questo nel giorno in cui il gruppo petrolifero russo Rosneft ha preso una partecipazione indiretta nel gruppo degli pneumatici. Bene, grazie Isabella Tasso dall'agenzia Radio con il Sole 24 Ore. A presto. A presto. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Riprendiamo alle 13:38 minuti con una notizia che arriva da Bruxelles. Peggiora ancora la performance del sistema giudiziario italiano nella definizione di cause civili e commerciali. A proposito di competitività del sistema, allora, secondo il quadro di valutazione presentato da Bruxelles, secondo la precedente analisi erano necessari quasi 500 giorni, parliamo di dati relativi al 2010, dall'attuale analisi emerge che sono saliti a quasi 600 i giorni appunto necessari per la definizione di cause civili e commerciali di primo grado. Adesso ci occupiamo di politica, parliamo del Partito Democratico e di una grana che la direzione nazionale del PD dovrà cercare di risolvere. Sono oramai troppe le denunce di irregolarità durante le primarie del PD in molte città e anche in molti paesi. L'ultimo caso è scoppiato nel fine settimana. L'assemblea regionale del PD Lazio si è riunita per ufficializzare l'elezione del segretario regionale Melilli, ma durante l'assemblea è scoppiato il caos per l'ambiguità di un articolo del regolamento. Ci sono state addirittura urle, polemiche, spintoni, insomma il caos, ma non è il primo caso. Uno dei casi di cui si sta discutendo sicuramente molto all'interno della direzione nazionale del Partito Democratico è quello di Modena. Le primarie ci sono state il 2 di marzo, primarie per la scelta del candidato sindaco, che sono sfociate in veleni e denunce. Francesca Maletti, la candidata giunta seconda alle spalle di Giancarlo Muzzarelli, ha infatti presentato un esposto per denunciare irregolarità nel voto da parte di numerosi extracomunitari che avrebbero ricevuto proprio dai sostenitori di Muzzarelli, secondo l'accusa, i 2 euro necessari per partecipare alla votazione. E questa accusa degli extracomunitari pagati per votare per un candidato non è la prima volta che salta fuori all'interno di una votazione di primarie. La cosa interessante è che c'è stata anche una presa di posizione delle comunità, delle associazioni di stranieri. Allora, per saperne di più, saluto Barbara Manicardi, che è la direttrice del Resto del Carlino, edizione di Modena. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. La novità degli ultimi giorni, anche se appunto se ne parla già dal 2 marzo, è che sono sempre di più il numero di associazioni di stranieri che si sono unite a questa denuncia fatta, mi pare, in primis dai filippini. Che cosa sta succedendo? Ma sta succedendo che la comunità filippina, appunto, ha, come dire, alcuni esponenti della comunità filippina inizialmente hanno sottoscritto una denuncia, appunto, denunciando il fatto che avrebbero ricevuto i 2 euro dal candidato Giancarlo Muzzarelli. Su questo si basa un po' l'esposto di Francesca Maletti, che appunto è arrivata seconda, che ha chiesto da tempo, insomma, di annullare completamente tutti i voti del seggio 2, che è il seggio stranieri allestito a Modena. Questo ha dato il via a una serie di polemiche infinite che il partito non è riuscito a, diciamo così, governare in nessun modo, ed è una lite che è ancora in corso, insomma. E l'ultimo, appunto, degli ultimi colpi di scena, non l'unico ma uno degli ultimi, è appunto questa lettera accorata delle comunità degli stranieri, che dicono: visto che gli esposti della Maletti sono stati 2 volte bocciati, prima dalla commissione comunale, dai garanti comunali, poi dai garanti provinciali, gli stranieri dicono: ascoltateci, non è che noi diciamo stupidaggini, noi confermiamo quello che diciamo. E si appellano direttamente alla segreteria nazionale nella persona di Stefano Bonaccini e al parlamentare modenese del PD renziano Matteo Richetti. Quindi diciamo che gli stranieri in questo caso dicono: noi non vogliamo avere nulla a che fare con quelli che avrebbero, secondo le accuse, accettato un pagamento. No, loro dicono, confermano il fatto che la versione, insomma, dei rappresentanti delle loro comunità, e contestano il PD modenese sostanzialmente, che vuole insabbiare questa cosa non convocandoli a testimoniare. Cioè, i garanti hanno preso una decisione, quella di dire va tutto bene, senza avere sentito le loro testimonianze, e loro dicono: no, noi facciamo, cioè, siamo andati a votare, contiamo qualcosa in questa città, vogliamo essere ascoltati. Chiarissimo, chiarissimo. Bene, grazie a Barbara Manicardi, direttrice del Resto del Carlino, edizione di Modena. Naturalmente questo è uno dei tanti casi che abbiamo registrato nelle ultime settimane. Abbiamo naturalmente contattato anche la direzione nazionale del PD, ma per il momento non abbiamo avuto una risposta negativa, diciamo, fino a questo punto. Adesso l'inchiesta di Daniele Biacchessi. E cala la notte a Mogadiscio. Non c'è elettricità e alla luce di candele e lampade a gas gli uomini, resi ancora più simili a fantasmi nella luce fioca, prendono il fresco, giocano e bevono tè e caffè. La città è reale. Un semaforo impazzito, l'unico funzionante, segna il rosso. Per la ripresa del paese, il segnale verde non sembra cosa di domani. Così iniziava uno dei reportage dell'inviata del TG3 Ilaria Alpi, scritto pochi giorni prima di essere uccisa da un commando di killer insieme con il giornalista Miran Robatin a Mogadiscio. Buonasera, oggi è un giorno tragico, un giorno di lutto per l'informazione italiana, per la RAI e soprattutto per noi giornalisti e tutti quelli che collaborano al TG3. La nostra collega, la nostra amica Ilaria Alpi è stata uccisa poche ore fa a Mogadiscio, stava lavorando per noi, stava lavorando per la RAI. Insieme a lei è stato ucciso il suo operatore, Miran Krovatin. Miran aveva 45 anni, una moglie Patrizia, un figlio di 7 anni, Ian. E così ci hanno lasciato e penso che con questo possiamo concludere. 20 marzo 1994. Ilaria e Miran partono da Bosaso in aereo verso Mogadiscio. Hanno raccolto interviste, testimonianze, immagini, hanno intercettato le navi regalate dalla cooperazione internazionale alla Somalia, che trasportano armi e rifiuti tossico-nocivi provenienti da alcune aziende italiane. Ilaria ha intervistato il sultano di Bosaso. Di sera vuole realizzare un servizio, vuole raccontare tutto agli italiani. Del resto è una giornalista. Vede consuma le suole delle scarpe, racconta, narra e non fa sconti a nessuno, non nasconde ciò che sa. Alle 15.10 a Mogadiscio scatta l'agguato. L'auto, con a bordo Ilaria Alpi e Miran Rovertin, viene bloccata da una jeep. L'autista tenta la retromarcia, gli assalitori scendono a terra, non c'è un vero e proprio scontro a fuoco. C'è un proiettile sparato a distanze ravvicinate da un killer che sfonda il parabrezza e colpisce Miran alla testa. C'è un altro proiettile che raggiunge la parte superiore della nuca di Ilaria. Pochi minuti, nessun agguato, scopo di sequestro e rapina, non c'è dubbio. È un'esecuzione. E invece no. E invece scattano i depistaggi. Nessun carabiniere presente sul posto, nessun militare trasporta i corpi di Ilaria e Miran nel porto vecchio di Mogadiscio. Nessun investigatore sequestra le armi dell'autista di Ilaria, neppure quelle dell'uomo di scorta. Per Ilaria non viene disposta un'autopsia, soltanto un esame esterno del corpo. La salma di Miran viene trasferita poi in fretta a Trieste. Non ci sarà mai un accertamento contestuale a quello sul cadavere di Ilaria. Ai genitori della reporter viene consegnato con estremo ritardo l'elenco degli effetti personali compilato sulla nave Garibaldi. Alcune videocassette girate in Somalia spariscono nel nulla. Solo 6 riguardanti la guerra civile in Somalia giungono in Italia con i corpi dei due giornalisti. Svaniscono nell'ombra anche 3 dei 5 taccuini trovati nella stanza di albergo. 20 anni dopo quell'agguato la verità e la giustizia sembrano lontane, ma resta la memoria di una giornalista che voleva fare bene il suo mestiere e per questo è stata assassinata. Così ho preparato su musiche di Paolo Fresu un mix di alcuni dei suoi principali servizi. Alle 8 sembrava una giornata come tante altre a Mogadiscio. Alle 10, nella zona sotto il controllo del generale Aina, per ribadire che non si trattava dei suoi uomini. Così mai non è sicuro. I militari belgi dicono che ogni notte gli americani sono morti, mentre il loro convoglio attraversava le strade di caschi blu che hanno perso la vita dall'inizio della seconda fase dell'operazione Omnia. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ecco i nostri titoli. Il Parlamento della Crimea proclama l'indipendenza e chiede al mondo di riconoscere il nuovo Stato, nazionalizzati i beni di Kiev. Oggi i ministri degli esteri europei discutono sulle sanzioni a Mosca, ma gli Stati Uniti prendono tempo. Oggi alle 18 l'incontro fra Matteo Renzi e Angela Merkel, intanto il governo accelera sui tagli alla spesa. I marines americani prendono il controllo della petroliera nordcoreana che aveva caricato il petrolio dei ribelli libici. È stato trovato morto oggi l'alpinista scomparso venerdì sul Monte Bianco, è precipitato per 600 metri. Adesso c'è America 24. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. The more we get into this, the larger the area they're searching. You were saying we're now searching an area that goes from Kazakhstan all the way down to Australia. Face the Nation, Bob Schiffer. Beh, gran parte dei programmi del mattino di ieri hanno dedicato in America le loro trasmissioni al mistero dell'aereo scomparso, il volo 370 della Malaysian Airlines, un mistero che ha affascinato non solo l'America ma il mondo intero, anche perché dopo che Edward Snowden ci ha detto che siamo spiati dappertutto, che nulla può sfuggire al grande fratello, beh, il fatto che un Boeing 777, uno dei più grandi, sparisca del nulla e non se ne sappia più niente, beh, devo dire, lascia davvero esterrefatti. Ma se il mistero continua per la storia dell'aereo, beh, non c'è più mistero in Crimea. Il referendum è avvenuto, direi che questa diventa per noi la notizia del giorno, con reazioni immediate da parte degli Stati Uniti. Sentiamo John Kerry. We believe the referendum is contrary to the constitution of Ukraine, is contrary to international law. Is in violation of that law and we believe it is illegitimate. Il segretario di Stato americano ha già commentato: il referendum è illegittimo, e ha ripetuto un po' le cose che sappiamo. Ci vorranno sanzioni collettive da parte europea, da parte del G7, insomma c'è tutta una procedura per cercare di isolare la Russia. Però Kerry ha anche lasciato uno spiraglio, si è sentito ieri pomeriggio di nuovo con Lavrov, beh, per protestare per la presa di questo impianto di gas ai confini con la Crimea da parte delle truppe russe, quindi di nuovo una violazione dell'integrità territoriale